Tante volte facciamo delle affermazioni che ci sembrano scontate e poi però non sappiamo dimostrarle. Per esempio, è scontato dire che i salmi sono la preghiera più bella della Bibbia, che è la preghiera universale. Poi dopo capita di incontrare gente che non li conosce. Allora io vorrò anche stasera fermarmi a commentare il Salmo responsoriale di oggi, che tra l'altro è l'ultimo, i Salmi sono 150, questo è proprio il 150esimo. È bello davvero, però come in tutte le cose bisogna un po' studiarle. Se non ci si mette con attenzione a osservarle bene, non sempre riusciamo a cavar fuori tutta la bellezza. E allora in questo salmo notiamo un verbo, i soliti verbi, no? Che si ripete in tutti i versetti. Lodate Dio, lodatelo, lodatelo, lodatelo. La lode è una delle forme di preghiera e di per sé è la formula più alta. Noi invece tante volte quando preghiamo chiediamo, chiediamo, chiediamo, chiediamo. Un'altra forma è il ringraziamento, non lo facciamo quasi mai. Tant'è vero che una volta finita la messa c'era il ringraziamento, ci si fermava. Oggi no, neanche più i preti si fermano a ringraziare, la gente men che meno ne approfitta per parlare. E se tu gli fai l'osservazione, ti rispondono: ah, ma noi parlavamo di cose spirituali. Veramente sarebbe il tempo del silenzio e del ringraziamento. E poi c'è l'altro tipo di preghiera, che è il chiedere perdono. Ma la lode noi la facciamo quasi mai. E invece è la preghiera che io dico gratis. Perché se noi chiediamo, se noi domandiamo perdono, siamo sempre implicati anche noi in qualche maniera. Ma se noi lodiamo, è fare i complimenti al Signore. E allora qui li facciamo passare. Lodate Dio nel suo santuario, cioè nel suo tempio dove abita. Lodate Dio nel suo maestoso firmamento, la natura, il cielo, è l'altra casa di Dio, no? Lodatelo per le sue imprese, cioè per tutto quello che ha operato per il popolo di Israele, massimamente l'uscita dall'Egitto. Lodatelo per la sua immensa grandezza. Voi capite che se uno ha la voglia e il tempo di fermarsi, queste cose poi le applica a sé. Voglio lodare Dio nella chiesa, che bello pregare in chiesa. Quando vado nella natura resto incantato dalla sua bellezza e lo lodo. Quando penso a tutto il bene che mi ha fatto, invece la gente pensa a quello che ritiene di non aver ricevuto da Dio e lo rimprovero. Quando io ti dico: ma al mattino ti sei svegliato, chi ti ha fatto aprire gli occhi? E poi dopo dice: dobbiamo anche lodarlo con la musica e col canto. Lodatelo al suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, con i tamburelli e le danze, con gli strumenti a corda e con gli strumenti a fiato, i flauti. Lodatelo con i cembali sonori, lodatelo con i cembali squillanti. Il canto veramente è una delle preghiere più belle. È gratis, perché non chiediamo nulla col canto. Lodiamo Dio. Secondo, esprime la nostra gioia. La gente triste non canta. Oggi, se guardate, non si canta più. Oggi c'è molta musica nelle orecchie. Oggi c'è molta musica dentro le automobili che passano via. Boom, le senti dal rumore che fanno della musica interna. Oggi c'è molta musica negli stadi, ma non si canta più. Le canzoni di montagna, le canzoni pop, le canzoni folk, chi le canta più? E anche in chiesa, nella nostra chiesa, grazie a Dio, si canta abbastanza bene, ma che fatica altrove far cantare, perché non siamo gente abituata a lodare Dio. E infine, dopo che abbiamo lodato Dio nel santuario, nel firmamento, nelle imprese, con tutti gli strumenti musicali, alla fine diciamo che la lode più bella siamo noi. Ogni vivente dia lode al Signore. E allora alziamo al Signore il nostro canto. Sapete che si canta con la voce, ma io dico che si canta soprattutto con il cuore. Perché anche chi ha la voce stonata, se canta sottovoce, non dà fastidio agli altri, o se canta nel suo cuore non dà fastidio agli altri, ma loda Dio. Si canta con il cuore e con gli occhi, con gli occhi. Infatti la gente non prende quasi mai il libretto dei canti. E non sai cantare, leggi, sei stonato, segui. Oh amici, che bello se dovessimo nelle nostre celebrazioni lodate il Signore con il canto.